notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. La richiesta di arresto per il senatore Azzollini, fra poco riunione per decidere la data, il PD verso il sì e rischio problemi per il governo. Mafia Capitale si scava nelle donazioni di Buzzi alla politica, soldi anche per una cena con Renzi e per la Leopolda, contatti con la segreteria di Marino per un campo rom. Immigrazione, la richiesta di Maroni è per la sospensione di Schengen e campi in Libia. Nelle stazioni di Roma, Tiburtina e a Milano stanno arrivando i profughi approdati in Sicilia. La Grecia, per il Consiglio di Stato illegali i tagli alle pensioni. Il rischio è di un nuovo buco da 1,5 miliardi. Juncker dice: sono d'accordo con chi sta perdendo la pazienza. Rischio caos a Fiumicino a partire da questa sera, ad un mese dall'incendio che ha devastato il Terminal 3, da questa sera appunto sarà ridotta fino alla metà l'operatività dello scalo. La Soyuz si sgancia dalla Stazione Spaziale Internazionale, è iniziata la discesa che riporterà Samantha Cristoforetti sulla Terra, lei saluta con un tweet. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri contatti, effettogiorno@radio24.it, se volete scriverci, la nostra pagina sul sito www.radio24.it e durante la diretta il numero di sms è 349-238-6666. In apertura restano in primo piano le inchieste che coinvolgono la politica. Iniziamo da Trani, dove c'è la richiesta di arresto, ve l'abbiamo raccontato ieri, per il presidente della Commissione Bilancio del Senato, Antonio Azzollini, del Nuovo Centrodestra, una richiesta di arresto alla quale il Partito Democratico sarebbe intenzionato a dare parere favorevole, un problema tra l'altro per il governo. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Eh sì, proprio così Simone, il governo è stretto tra il nuovo caso Azzollini e il Campidoglio e potrebbe trovare la sponda grazie al soccorso azzurro, sarebbero 15 al Senato pronti a lasciare, a diventare neoresponsabili per dar manforte al Premier Matteo Renzi e portare così a termine la legislatura e approvare le riforme istituzionali. A capitanarli sarebbe Denis Verdini, ex braccio destro di Silvio Berlusconi, ora avverso al cerchio magico che potrebbe far partire un appello pubblico per firmare le riforme. Ma intanto veniamo ai fatti di cronaca. Il PD voterà per l'arresto del presidente della Commissione Bilancio di Palazzo Madama e senatore del Nuovo Centrodestra Antonio Azzollini, per il Premier. Qui si tratta non di un avviso di garanzia ma di una richiesta di arresto e dalle carte di Mafia Capitale spunta poi un'intercettazione tra la segretaria del sindaco Ignazio Marino, Silvia Decina, e Salvatore Buzzi, il boss delle COP. Ma il commissario PD, e qui ti interrompo scusa Simone, Matteo Orfini parla di un'intercettazione con nessuna rilevanza penale, quindi Marino va avanti, anzi oggi Orfini ha incontrato Marino per fare il punto sul dimezzamento delle commissioni al comune che passeranno da 24 a 12 e ci sarà anche l'azzeramento di tutte le presidenze. A te Simone. E grazie Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti, passiamo proprio a quelli più specificatamente dedicati all'inchiesta su Mafia Capitale. Ignazio Marino non si tocca. Il Partito Democratico fa quadrato attorno al primo cittadino di Roma. Per ora la linea resta quella dettata da Matteo Renzi. Dopo lo stillicidio di nuovi particolari che emergono dall'inchiesta su Mafia Capitale, nel partito però si starebbe ragionando anche su un piano B per scongiurare il rischio di uno scioglimento del comune per mafia che danneggerebbe l'immagine della città alla vigilia del giubileo. Nonostante la smentita arrivata oggi dal presidente Dem Matteo Orfini, fra le ipotesi sul tavolo c'è anche quella di dimissioni volontarie del sindaco. Dalle carte dell'inchiesta, intanto, una nuova intercettazione telefonica testimonia come il boss delle cooperative, Salvatore Buzzi, avesse contattato anche il capo della segreteria di Marino, Silvia Decina, per provare a mettere le mani su 10 milioni di euro messi a disposizione dalla multinazionale francese Leroy Merlin, interessata ad aprire un nuovo punto vendita a ridosso di un campo nomadi nella zona di Ciampino. Quel progetto fu giudicato irrealizzabile, precisa oggi il Campidoglio, che in una nota sottolinea anche che la telefonata in questione è stata giudicata penalmente irrilevante dagli inquirenti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Restiamo sulla cronaca giudiziaria con gli aggiornamenti sull'indagine che coinvolge Claudio Lotito. Il giorno dopo le perquisizioni della Digos si fa il punto sul materiale sequestrato. I magistrati, coordinati dal procuratore aggiunto Piscitelli, dovranno esaminare i documenti relativi ai versamenti dei contributi federali, che potrebbero fornire elementi importanti per le indagini mirate soprattutto a chiarire la posizione del presidente della Lazio e della Salernitana Claudio Lotito, accusato di tentata estorsione. Secondo gli inquirenti, avrebbe minacciato dirigenti della Lega Pro di far ritardare o bloccare i contributi alle loro società se non avessero seguito le sue indicazioni nell'ambito della FIGC. Al momento solo Lotito risulta indagato. Ieri sono state perquisite le abitazioni romane del presidente e i suoi uffici in Federcalcio, oltre a quelli del presidente della FIGC Carlo Tavecchio e della Lega Pro Mario Macalli. Sono stati sequestrati anche computer al fine di verificare se, in forza dell'appoggio elettorale garantito al presidente Tavecchio, Lotito abbia ricevuto vantaggi anche economicamente valutabili, oltre che una posizione di controllo tale da indurre i suoi interlocutori a ritenerlo in grado di condizionare la tempistica delle corresponsioni dei contributi federali. Anche se solo il DG dell'Ischia Isola Verde ha deciso di denunciare il numero delle squadre di Lega Pro costrette da un meccanismo definito dai magistrati intimidatorio, sarebbe consistente. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Tra un attimo verremo ai temi dell'immigrazione, ai temi della Grecia e poi parleremo anche di omicidio stradale, ma intanto un piccolo interludio per parlarvi di qualcosa che sta succedendo in questi minuti. Poco più di un viaggio in treno Milano-Roma, questa la durata del ritorno della Soyuz sulla Terra, a bordo della quale c'è Samantha Cristoforetti. Si è sganciata dalla Stazione Spaziale Internazionale una quarantina di minuti fa. Saluto Roberto Battiston, che è il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Come stanno andando le cose? Tutto va benissimo, come un orologio. Alle 15.43 la nostra astronauta nazionale toccherà il terreno nel Kazakistan, questa grande area desertica, e le squadre di soccorso di elicotteri andranno a aiutare i tre astronauti a uscire dalla capsula per poi portarli con un volo diretto dal Kazakistan a Houston e negli Stati Uniti per i controlli medici. Quando la rivedremo in Italia, Cristoforetti? Ci torna? Quando? Spero proprio che torni quanto prima. Adesso per un po' di tempo avremo la possibilità di parlarle. Il primo contatto sarà lunedì prossimo, perché a Houston verranno fatti tutta una serie di controlli medici. C'è un centro specializzato della NASA in cui noi ci serviamo regolarmente con gli nostri astronauti per tutta la serie di controlli, qualche fase di riabilitazione. Ci racconta questo, Battiston, brevemente, che cosa vive un astronauta quando ritorna sulla Terra dopo sei mesi, tra l'altro, nello spazio? Che cosa deve fare per rimettersi in sesto, per così dire? Ma tutti quanti pensiamo sempre ai cambiamenti fantastici che accadono quando uno incomincia a volare, tutto galleggia e gli oggetti si nascondono in tutte le parti, come se fosse ogni angolo uguale, in basso e in alto. Mentre tornando sulla Terra, quello che ci raccontano gli astronauti, che innanzitutto a un certo punto si sente la tenaglia della gravità che riprende possesso delle nostre membra, e per un po' di tempo dovranno abituarsi che quando lasciano qualcosa mezz'aria casca sempre per terra. Questo è successo più di una volta, che gli astronauti nei primi giorni non si rendessero conto di questi aspetti. Grandi rotture di bicchieri e bottiglie e piatti, ovviamente. Battiston, siete soddisfatti, immagino? Moltissimo, perché ci sono due aspetti di questa missione che sono andati benissimo: quello scientifico-tecnico, gli esperimenti che Samantha ha fatto, 9, ma tutti quanti gli altri a cui lei ha partecipato. Sono state centinaia di azioni, di misure, con tutti i giorni, perché ricordiamo che la Space Station è un grande laboratorio con decine e decine di esperimenti che vengono fatti giorno e notte. E poi riconosciamo che questa esposizione di questa bella immagine d'Italia, di una donna italiana che adesso ha anche il record di la donna che ha volato di più al mondo, quindi tutta una serie di messaggi molto positivi per il nostro paese, per le nostre donne, per la nostra tecnologia, è un grande risultato. Grazie a Roberto Battiston anche per la sua disponibilità, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. E noi torniamo adesso al tema dell'immigrazione, sul quale vi devo dare subito una dichiarazione del sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, arrivata pochi istanti fa. Dice: noi abbiamo fatto il nostro dovere istituzionale, abbiamo dato segni forti di vicinanza e solidarietà. Certo c'è un limite, si riferisce Pisapia evidentemente all'arrivo costante anche in queste ore nella stazione centrale di Milano di molti profughi. È un tema questo sul quale torneremo anche più avanti, ne parleremo con il presidente del secondo municipio di Roma, perché la stazione Tiburtina altrettanti ne stanno arrivando. Intanto torna ad intervenire il presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni. Sospendere Schengen e impedire le partenze dei migranti dalla Libia potrebbe essere una soluzione per contenere l'allarme immigrazione, lo sostiene il presidente della Lombardia Roberto Maroni in audizione presso il comitato Schengen. Altri 500.000 profughi in arrivo, siamo di fronte a un'emergenza umanitaria. La mia indicazione è quella di bloccare le partenze non bombardando i barconi ma impedendo loro di partire con il blocco navale, ma meglio ancora sarebbe con un'iniziativa della comunità internazionale, delle Nazioni Unite, che devono andare in Libia e fare dei campi profughi. Il governo dovrebbe spingere sull'intervento dell'ONU e dell'Unione Europea, continua Maroni, ma per ora l'Italia non sembra essere stata incisiva, soprattutto durante il suo semestre a Bruxelles. Da Palazzo Chigi non sono stati neppure rispettati gli accordi firmati con le regioni lo scorso 10 luglio, denuncia il governatore, relativamente alla copertura economica per l'emergenza immigrazione e alla costruzione di hub per l'accoglienza profughi prima dello smistamento tra i comuni. Sono d'accordo con la redistribuzione, assicura Maroni, ma solo a patto che il governo smetta di essere inadempiente. Camilla Romana Bruno, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo all'economia. Innanzitutto una breve notizia che arriva dall'Italia e riguarda il numero di attivazioni di nuovi contratti di lavoro in tutti i settori dell'attività economica. Sono i dati del Ministero del Lavoro che ormai vengono forniti mensilmente. Sono state le attivazioni di nuovi contratti 912.000, mentre le cessazioni 700.000. Questo vuol dire che abbiamo un saldo positivo per oltre 212.000 contratti. Tutto questo nel mese di aprile, dati che, come sempre vi ricordiamo, non sono necessariamente indicativi dell'andamento dell'occupazione, ma sono appunto attivazione di nuovi contratti. L'altro fronte economico continua ad essere quello della Grecia. Ci colleghiamo con Vittorio Daroldi, inviato del Sole 24 Ore, spesso inviato in Grecia, nella fattispecie no, però è il suo tema. Vittorio, buongiorno e bentornato. Buongiorno a voi. Allora, le notizie di oggi ci raccontano dalla Grecia innanzitutto che il Consiglio di Stato ha detto che il taglio delle pensioni del 2012 non va bene, è illegittimo e c'è il rischio di un buco da 1,5 miliardi, ma ci raccontano anche di un apparente riavvicinamento tra la Commissione europea e il governo greco, almeno dalle dichiarazioni informali che giungono da Bruxelles. Vittorio. Sì, esattamente. Guarda, oggi per dare un ordine alle numerose notizie che arrivano da Atene, la più importante riguarda il nostro mondo, i media, dove riapre questa mattina alle 6 di mattina, ha riaperto la TV pubblica ERT, che come ricorderai 2 anni fa era stata chiusa con un blitz delle forze dell'ordine, con appunto uno spiegamento di polizia, e gli schermi neri appunto che hanno connotato questo canale tornerà con un concerto a cui dovrebbe partecipare la violinista che aveva pianto nel corso dell'ultima manifestazione trasmessa in televisione, in un episodio che aveva commosso tutta la Grecia, e il governo ha promesso anche la riassunzione di circa 1.500 giornalisti che erano stati licenziati dal precedente governo Samaras nel giugno 2013. Ma per tornare alla tua domanda, sul fronte del piano sul debito, effettivamente c'è questa nuova tegola per Tsipras, perché la Corte Costituzionale ha detto appunto che non era legittimo il taglio delle pensioni, qualcosa di molto simile a quanto è avvenuto anche da noi. Il governo ha detto che adesso darà una risposta, non sappiamo ancora in che termini, ma intanto Siriza ha continuato a dire che non è disposta a fare ulteriori concessioni sul fronte dell'austerity, tagli e tasse per intenderci, in cambio dei 7 miliardi che sono fermi da agosto dell'anno scorso, ma ufficiosamente Tsipras potrebbe cedere su pensioni e aumento dell'IVA in cambio però di una ristrutturazione del debito, anche minima, anche parziale. ma sostanzialmente una soluzione che dia un respiro di medio termine alla crisi e non continui questo circolo vizioso debiti e crediti in cambio di tagli. Ti ringrazio, grazie a Vittorio D'Arold del Sole 24 Ore. E quindi, come avete sentito, siamo ancora lontani da un accordo. Per venire a notizie che invece abbiamo per certe, abbiamo la finalista ai playoff di basket e non è l'Olimpia, Dario Ricci. Eh sì, è notizia che ne contiene un'altra, perché abbiamo già una finalista, ma è Sassari che ha fatto questa bellissima impresa, ha vinto la bella ieri al Forum 86-81 dopo i tempi supplementari. Beh, è la notizia dell'anno, perché se la campagna europea dell'Olimpia, chiaramente, che l'anno scorso era arrivata a un passo dalle Final Four, ben difficilmente poteva essere replicata o migliorata, lo scudetto era di fatto cucito già sulle magliette dei milanesi, ma anche il bis era di fatto scontato. Il fallimento dei biancorossi, che dovranno dare il via ora ad una rifondazione con diverse incognite. La passione di Armani viene inevitabilmente un pochino affievolita da questo flop. C'è anche il rebus Palalido, si dovrebbe arrivare finalmente alla fine dei lavori, però anche lì c'è un accordo col comune da ridisegnare. Intanto applausi a Sassari, tra l'altro dopo in tutti i convocati ci sarà ospite il coach Meo Sacchetti, e stasera conosceremo anche l'altra finalista, bella anche in questo caso, tra Venezia e Reggio Emilia. Chiunque vada in finale, avremo un campione d'Italia inedito nella finale che parte da domenica, quindi spettacolo assicurato. E grazie a Dario Ricci per questo aggiornamento. Vi rimando dunque anche a tutti i convocati per tornare a parlare di basket. Noi adesso ci fermiamo per sentire cosa succede sulle strade e subito dopo andremo a sentire invece che cosa succede negli aeroporti, perché a Fiumicino siamo a circa un mese dall'incendio del Terminal 3 e le cose sono tutt'altro che sistemate, tanto che da stasera parte un piano che potrebbe creare parecchio caos con un'operatività ridotta fino al 50%. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Richiesta di arresto per il senatore Azzollini di NCD. Il Partito Democratico conferma: diremo sì. Mafia Capitale si scava nelle donazioni di Buzzi alla politica e ci sono contatti con la segreteria di Marino. Immigrazione, la richiesta di Maroni è per la sospensione di Schengen e campi in Libia. Parla il sindaco di Milano Pisapia: abbiamo fatto il nostro dovere, ma c'è un limite. In Grecia per il Consiglio di Stato sono illegali tagli alle pensioni, rischio di un buco da 1,5 miliardi. Un portavoce Juncker dice: i rapporti tra la Commissione e Tsipras sono tornati buoni. La Soyuz si sgancia dalla Stazione Spaziale Internazionale, è iniziata la discesa che riporterà Samantha Cristoforetti sulla Terra. Patrizia Terlizzi, direttore del Sistema Aeroporti del Lazio, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a lei. Allora, gradualmente sarà ridotta l'operatività di Fiumicino per il problema che permane al Terminal 3 a circa un mese, se non erro, me lo confermi lei se più o meno è quello, circa un mese dall'incendio al Terminal 3. Innanzitutto ci spieghi le modalità di questa riduzione, quanti voli verranno cancellati? Il numero di voli che verranno cancellati numericamente non posso fornirglielo, le posso fornire la percentuale di cancellazione, che sarà del 40% dell'operativo, con il mantenimento del 60% dei voli che erano stati programmati per questo periodo sull'aeroporto di Fiumicino. Fino adesso siamo andati avanti con una riduzione dell'80%, no? È così? Sì. Il rischio che ci siano forti problemi, quindi, durante questo fine settimana è forte? Guardi, la necessità di giungere a questa riduzione dei voli che ci è stata proposta dal gestore aeroportuale, ci è stata richiesta meglio dal gestore aeroportuale, è in relazione al fatto che al momento non tutti i gate di imbarco dell'aeroporto di Fiumicino sono disponibili, quindi abbiamo delle aree ridotte per quanto riguarda la possibilità di imbarco dei passeggeri, e quindi attraverso uno studio diciamo, fatto dal gestore aeroportuale in ordine alla capacità aeroportuale, ci si è resi conto che per motivi legati a una gestione in sicurezza delle operazioni si era posta la necessità di ridurre, secondo diciamo, un valore del 40%, i voli per evitare che ci potessero essere situazioni di congestione non gestibili in termini di sicurezza operativa legato, ripeto, alla presenza ulteriore rispetto a quella che è la capacità dei gate. Senta, quanto durerà questa sospensione? Allora, noi attualmente abbiamo una previsione fino al 24 giugno, ma nulla vieta che se ci dovessero essere delle modifiche per quanto riguarda le disponibilità delle aree, la situazione può essere rivalutata e ristabilita, perché, ripeto, sempre legata alle aree che abbiamo disponibili. Quindi al momento sappiamo che per il prossimo paio di settimane circa a Fiumicino sarà operativo solamente al 60% l'aeroporto di Roma. Ma come mai ci si mette così tanto a ripristinare Terlizzi? Noi abbiamo delle aree che non sono utilizzabili per provvedimenti della magistratura, quindi non è un problema di ripristino funzionale delle aree, ma di possibilità di utilizzo delle aree medesime. La ringrazio, grazie a Patrizia Terlizzi, direttore del sistema aeroporti del Lazio, e restiamo a Roma. Saluto Giuseppe Gerace, che è presidente del secondo municipio di Roma. Buongiorno e benvenuto, Gerace. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. L'abbiamo chiamata perché è uno dei municipi sui quali più o meno insiste la stazione Tiburtina, dove, nella quale da giorni stanno continuando ad arrivare profughi dalla Sicilia. Ci può dare un quadro della situazione? Allora, assolutamente sì, e vi ringrazio per il vostro servizio, perché è opportuno specificare che si tratta di persone transitanti, cioè di persone che stazionano 2, massimo 3 giorni e poi ripartono per l'appunto da stazione Tiburtina anche con i pullman, fondamentalmente verso il nord Italia e il nord Europa. Io sono stato lì anche ieri, sono passato anche oggi, ci sono tantissime donne, tantissimi bambini, quindi è un quadro anche toccante e anche triste, e questo lo dico anche per tranquillizzare la popolazione che ha purtroppo a volte timore, ma perché non conosce il fenomeno. Sono transitanti, bambini, donne e anche veramente uomini e ragazzi. Chiaramente, essendoci un flusso continuo nella bella stagione, non si nota appunto la differenza, e sembra che ci sia una presenza costante e stabile. In realtà sono persone che arrivano e poi se ne arrivano e poi ripartono, poi ripartono con i pullman verso appunto Nord Europa, Nord Italia. Mi dice solo una cosa, ma ci sono controlli su queste persone? Perché le dico, ieri abbiamo avuto ospite il sindaco di Vicenza, Achille Variati, che è del Partito Democratico, che ha marcato una certa distanza rispetto a quella che è la gestione dell'immigrazione, e diceva: noi abbiamo il problema che questa gente arriva e poi non sappiamo dove finisce, e a tutti gli effetti i dati ci dicono, e lo raccontavamo anche ieri, che ci sono 100.000 persone approdate sulle nostre coste, delle quali non conosciamo la destinazione, non sappiamo dove siano finiti, o clandestini in Italia o come dire, in Europa da qualche parte. C'è qualcuno che controlla là oppure no? Beh, se arrivano a Roma e poi si spostano è perché sono seguiti dagli organi competenti per prendere un pullman, semplicemente non potrebbero altrimenti salire su un pullman e dirigersi verso Roma, e quindi insomma c'è sicuramente un controllo. Quello che bisogna migliorare nel rispetto di queste persone e della popolazione del secondo municipio, ma di Roma e poi mi permetto di dire d'Italia, è un'accoglienza, diciamo, adeguata, che ancora oggi è, diciamo così, da perfezionare. Si sta lavorando, io anche stamattina ero alle 8:30 in Campidoglio per una riunione sul tema, per cercare di capire come al meglio accogliere queste persone da tutti i punti di vista, della dignità umana, dei temi della salubrità e anche dell'armonia con il territorio. Ma quindi cerco di capire ancora meglio, Gerace, magari lei mi può aiutare, perché insomma immagino che abbia parlato anche con i responsabili, della sicurezza. Di fatto dalla Tiburtina, dalla stazione Tiburtina transitano, e quelli che poi vengono mandati al nord, dove ci sono i presidenti delle regioni che non li vogliono più, e anche qualche sindaco, come ha fatto oggi Giuliano Pisapia, iniziano ad esprimere qualche perplessità. Cioè, quello è un punto di transito in pratica. Quello è un punto di transito, diciamo, no comment su chi rifiuta queste persone. No, ma infatti non gliel'abbiamo chiesto. No, per carità, noi siamo un paese accogliente, dobbiamo essere un paese accogliente, non dimentichiamoci il nostro passato, i nostri appunto parenti, anche delle persone che magari in questo momento si esprimono così. Ma Nord Italia e Nord Europa, perché molti vorrebbero andare anche in altri paesi dell'Unione Europea. Quindi adesso poi nel dettaglio dove andranno, ammesso che ci riescano, ovviamente. La ringrazio, grazie a Giuseppe Gerace, presidente del secondo municipio, per questo racconto. Qualcuno via SMS, ma questo succede regolarmente, ci scrive: e vai con la storia strappalacrime pro immigrazione del giorno. No, non era questo, stavamo raccontando che cosa succede in un quartiere di Roma dove questa gente arriva e staziona per 3 giorni con una certa preoccupazione anche dei residenti. Abbiamo raccolto molto semplicemente un racconto. Come avete sentito, il problema c'è anche alla stazione di Milano. Abbiamo cercato l'assessore Maiorino, ma insomma stamattina non siamo riusciti a raggiungerlo. Ci fermiamo, ci ritroviamo tra poco e poi parleremo di una storia che è arrivata questa mattina da Conversano, e siamo in Puglia, dove una donna è morta dopo un'operazione per la fecondazione eterologa. Parleremo col medico che si è occupato di questa vicenda per capirne qualcosa di più. Intanto il traffico e poi la borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Richiesta di arresto per il senatore Azzollini di NCD. Il Partito Democratico dirà di sì. Mafia Capitale si scava nelle donazioni di Buzzi. Contatti con la segreteria di Marino per un campo rom. Immigrazione, la richiesta di Maroni è per la sospensione di Schengen e campi profughi in Libia. Pisapia dice: abbiamo fatto tanto, adesso c'è un limite. Grecia per il Consiglio di Stato, illegali tagli alle pensioni, il rischio è di un nuovo buco da 1,5 miliardi. La borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Veniamo ad una storia di cronaca che arriva da Conversano, e siamo in provincia di Bari. Una donna di 38 anni è morta ieri nell'ospedale Florenzo Iaia di Conversano dopo essere stata sottoposta ad un intervento di fecondazione assistita. Saluto Giuseppe D'Amato, che è medico responsabile appunto di procreazione, procreazione assistita di secondo livello proprio di Conversano, di quell'ospedale, quindi responsabile dell'area insomma dove questo fatto è avvenuto. Buongiorno dottore. Buongiorno a lei. Buongiorno, che cosa è successo? Innanzitutto devo chiarire che io lascio questa intervista ad ordine del mio direttore generale, che non tiene appunto a che vengano date le prime nozioni per poter rispondere alle richieste della stampa. Sì. Quello che è avvenuto è che la paziente ha semplicemente subito un intervento rutinario che è consistito in quello che si chiama, per semplicità, un PAP, cioè un prelievo transvaginale guidato. Abbiamo prelevato le uova di questa signora. Quello che è avvenuto dopo è negli atti, e tutti aspettiamo il vaglio dell'organo della giurisdizione per capire cosa sia avvenuto, ma per quello che ho potuto constatare, per quello che è avvenuto, nonostante tutti i provvedimenti, per cui tutta l'unità operativa e il presidio si è mosso in favore di questa signora, purtroppo ha conseguito un arresto cardiocircolatorio. Quindi bisogna conoscere quali siano le cause. Quindi la prima nozione che vorrei dire: non si muore di fecondazione in vita. Voi siete tranquilli su come avete operato, su come avete lavorato? State verificando anche il rispetto di tutti i protocolli? Noi siamo non solo tranquilli, ma abbiamo consegnato giustamente tutti gli atti in mano all'organo della giurisdizione. È stata nominata ad ordine del direttore generale una commissione interna proprio della ASL che debba vagliare tutta la condotta dell'equipe al completo, alla quale noi ci dedicheremo con un spirito tranquillo, sereno. Quello che voglio dare a lei come giornalista e agli ascoltatori è una valutazione generale. Aumenta di giorno in giorno l'età media della prima parità. Sempre più avanti le donne cercano un figlio o partoriscono. Vorrei soltanto dire che non è il parto in sé o la vicenda della fecondazione in vitro. Oggi omologa, immagini con l'eterologa, donne sempre più grandi potranno concepire. È la prima volta nella storia umanità che questo si verifica. E qui dobbiamo aspettarci che queste pazienti rechino con sé anche le malattie che nel corso degli anni hanno, diciamo così, guadagnato. Questa appunto la sua valutazione di medico. Ma lei faceva parte dell'equipe, dottore? Ero ero l'operatore. Era io che lei... ho condotto l'intervento secondo le regole dell'arte. È lei che ha condotto l'intervento. Abbiamo visto che ci sono due persone indagate. Immagino che lei sia tra queste due, suppongo. Assolutamente sì, perché ero in sala operatoria. Per omicidio colposo è l'indagine. È un atto in questi casi dovuto, cioè lo chiariamo anche con gli ascoltatori, insomma, evidentemente. Dovuto, e sono il primo a invocare al più presto di essere messo a conoscenza delle risultanze degli atti peritali che diciamo così attendiamo. La ringrazio, grazie a Giuseppe D'Amato. Devo ringraziare non solo me, devo ringraziare i tanti operatori dell'avvocazione assistita che, come lei sa, tutti i giorni non sottraggono vite a questo paese, ma le donano, e donano il loro lavoro indefesso a una comunità complessa, come le ho descritto, e spero voi giornalisti ci aiutiate nel far trasferire alle donne e agli uomini di questa nazione che tutto ciò che succede può capitare anche sulla sede del dentista. La ringrazio, grazie a Giuseppe D'Amato, medico responsabile di procreazione medicalmente assistita di secondo livello di Conversano, e come avete sentito è il medico che ha operato in questo caso. C'è stato il primo passaggio ieri per la legge sull'omicidio stradale. Troppi morti sulle strade conseguenti all'uso e all'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti quando ci si mette alla guida, ovviamente aveva imposto l'adozione di misure decisamente severe. A commentare l'ok del Senato al reato di omicidio stradale il senatore PD Giuseppe Cucca, relatore del disegno di legge che ora dovrà passare alla Camera. Da 8 a 12 gli anni di carcere per chi si mette al volante sotto gli effetti di alcol o droghe e uccide una persona. Pene che salgono fino a 18 anni in caso di omicidio plurimo. Il testo prevede anche il ritiro della patente fino a 30 anni e condanne per lesioni stradali da 2 a 4 anni. Esulta su Twitter il premier Renzi, anche se al Senato il governo è andato sotto su due emendamenti sui quali aveva espresso parere contrario. Cucca prevede qualche modifica a Montecitorio, il che vuol dire che ci vorrà un nuovo passaggio al Senato. Qualche aggiustamento credo sarà necessario, ma ovviamente la struttura generale è quella, e cioè un provvedimento che svolga effetti di prevenzione e di deterrenza. È ovvio che a questo dovrà accompagnarsi anche una seria campagna di educazione, e spero che anche le forze dell'ordine incrementino i controlli su questa materia. Nazareno Orlandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tra sanzioni alla Russia, svalutazione del rublo, fuga di investitori dall'est, le imprese italiane perdono 3 miliardi all'anno. La stima è del Sole 24 Ore all'indomani della visita di Vladimir Putin in Italia. L'impatto più pesante, spiega il quotidiano in edicola oggi, è per i comparti pellame, tessile e abbigliamento. Ma quelle che sono apparse come aperture di Renzi a Putin su questo fronte vengono gelate da Washington. È una doccia fredda e un richiamo alla realtà quello che è arrivato dagli Stati Uniti poche ore dopo la partenza del presidente russo da Roma. Le conclusioni del G7, si dice alla Casa Bianca, sono molto chiare. I leader, compreso il premier Renzi, si sono impegnati per mantenere le attuali sanzioni sulla Russia e per imporne delle altre se necessario. Il ritorno alla normalità con Mosca non sarà possibile fino a che gli accordi di Minsk, si aggiunge, non saranno pienamente rispettati dal Cremlino. È invero lo stesso obiettivo che si sono dati ieri sia Renzi che Putin, il pieno adempimento degli accordi di Minsk, ma il premier e il presidente erano sembrati molto più desiderosi di arrivare speditamente a chiudere con la fase delle sanzioni di quanto non siano gli Stati Uniti e probabilmente il Consiglio dei Capi di Stato e di Governo della UE, che si riuniranno a fine mese. Obama intanto ha firmato la proroga di un altro anno delle sanzioni contro la Bielorussia, imposte per la prima volta nel 2006. Per il governo di Minsk è un atto che rivela pigrizia da parte della burocrazia americana, perché non tiene conto di quanto siano cambiate le relazioni tra Bielorussia e Stati Uniti. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Traffico.